sto già dentro ogni tanto, ma qualche mese non c'entravo proprio. Oggi per puro caso, poc'anzi, che stavo facendo cosa qua e l'ho acceso, ho sentito che stavano parlando sul luce, se no a volte no, ma sono impegnato a volte in tante cose e niente, dai, ho tante cosette da fare, no. Poi durante il giorno non entro mai perché c'è il negozio aperto e per non disturbare, allora l'orario del negozio non entro mai. Ecco perché voi entrate nell'orario che il negozio è aperto la sera e io allora non accendo neanche perché non posso parlare. Ecco tutto qua. Perché stai ancora entrando? Sì, da quando ho passato l'antenna non l'ho sollevata più, l'ho passata per cos'era? Ah, me ne era l'aspirare mi si era spezzato, qualcosa si era, adesso mi ricordo se me era successo, l'ho fatta nuova. L'ho passata e l'ho lasciata bassa. Controllato, stazionale, non ce n'era, e doveva fare Napoli. E l'ho lasciata così, non l'ho portata, da come l'ho passata, c'ha meno. Allora, in propagazione ricevo di meno, capito? Quelli lontano, a volte non riesco a sentirli. Però entra nel negozio come l'ho passato. E quando era alta non entrava più? No, non entrava quando era alta, non entrava più. E allora alza oggi, cosa ci vuole? Ah, no. Adesso che l'ho passata di un paio di metri, l'ho passata giù per sono arrivata e così l'ho lasciata. Sono arrivato all'aspirare e ce l'ho troppo vicino al tetto, capito? Ecco perché. Poi mi mancano un paio di radiali, che sono delle cornacchie o cos'è, me l'ho tracciate. Anche quelle ci mancano. Ce le ho, però non sono andato lì a piazzarglieli. Infatti. Ma poi se anche se non ce l'ha, già li vedono da piccolo, li rifai, prendi la misura di quello che c'è e lo rifai uguale. Come ho fatto io li ho cambiati due volte, perché le cornacchie, addirittura li ho messi anche in alluminio pieno. E beh, mi hanno rotto anche qui. Ma io ce l'ho trovato le sue, le manca un pezzettino, mezzo centimetro ne manca, non di più. E le ho recuperate, capito, le sue. Quelle che sono cascate, le ho recuperate, sono intere, gli manca solo quel pezzettino, ma non sono stato lì a mettergli. Ho visto che non c'erano stazionarie, solo che molti da lontano non ricevo come ricevevo prima, mi capito? E forse non avrà neanche a trasmettere come trasmetteva prima. Magari prima superavi degli ostacoli che adesso magari abbassando la te li vedi di fronte, capito? Sì, ho visto, notato che io no, prima se tu ti ricordi, ho problemi di ascoltare quelli di lontano, non ne avevo, io parlavo e sentivo da casa a campè, da cosa, li sentivo, invece adesso non ho più, però la lascio così, tanto visto che non c'è quasi mai nessuno, e poi propagazione, già, molti non li sento, dico la verità, mi è capitato con un'estazione, li sentiva bene, io non li sentivo per nulla, ed è tutto dipende da quando ho passato l'antenna. Infatti, quello mi conta molto, il fatto di averla abbassata, magari ti trovi l'ostacolo davanti e ti impedisce le onde di arrivare dove devi. Andare, Antonio, ripeto. Cavolo, già che cammino c'è. Già era un giorno senza sentire la gigica. Ora ti arrivo lì al tavolo. La gente è un po' con i piccitti. No, di radio ne vi bene. Il segnale non lo stavo guardando perché non c'avevo gli occhiali. Adesso me lo guardo, che siccome lo smette il picco, prova a parlare, a vedere, ti dico anche il segnale. 1, 2, 3, prova. E se sopra il 9 qualcosa, dai, di segnale. No, la radio è buona, anche buona di segnale, di radio, sì. Vabbè, c'è una bella sentenza, ma non è negativo, insomma. Però adesso non ce la salga a 4 metri, voglio vedere se si riprende. Ho capito, no, sei negativo, non ho capito cosa hai detto. Ho notato che in quella zona di 80 lì sono un po' più nascosto. Ma adesso vorrei che ce la salga a 4 metri, voglio vedere se prende. No, è il caso di un segnale di 9 decimi qua. Anche tu sei così. Io sono solo paracchino, non c'ho altro, perché prima ti sentivo molto più basso anni indietro, quando non so dice che eri dietro, non so come, non mi ricordo, ma adesso mi sembra che va meglio. Ma ce l'andrà sul petto, vedi tu. Però ho passato io, attenzione a tu, e l'ho passata io a te. Ecco perché sto dicendo, se no prima se ce l'avevo alta, ti avrei preso con un segnale più alto a te. È normale. A sotto scala, che proprio lui lo sentivo anche senza antenna, Gianni io. A Gianni io non c'era bisogno dell'antenna, senza mettere l'antenna si sentiva al baracchino. E adesso quanto mi senti, G? Adesso sei 9,25 quasi, sei vicino a 9,3, sei un dopo il più, sì. K. Poi il più quanto è vicino al 30, però sopra il 30 proprio non c'è. E già va bene, va. Era per vedere, anche io ero un po' che non accendevo, adesso ultimamente in questi giorni sta accendendo. Perché accendeva non veniva nessuno, d'estate poi era proprio zero. Però attenzione, io sono sempre di baracchino, non sono di... non c'ho altro attaccato, il baracchino solo sta andando. K. Sì, no, ma arrivi bene, sì. Arrivi bene, era che io avevo il volume troppo alto e lo sentivo come saturo, invece come ho abbassato adesso ti sento bene. E voi dite, no, e poi questo è un baracchino che spinge pure, dico la verità, questo è, c'è già... già di sé, infatti c'è quei 20 watt ce l'ha già di sé suo questo quando nasce, questo ce l'ha già di sé. Che apparato? Questo è Lafayette GFK, è questo qua. Ah, ho capito, quello che cerca la sopravvivistica monistica. Molti già ce l'hanno questo, perché questo c'ha già due, c'è un bel modulatore, c'ha già due finali belli potenti di suo, nasce già così, capito, questi sono così questo qua. E invece sto scendo con il Cobra 200DX. Cobra è bello, ah quello, ma c'hai quello che c'è quel, tutto davanti, c'è quello di blu o rosso com'è, che si illumina, quello grande. Sì, quello lì, quello tutto con il frequenzimetro rosso e lo smitter verde e rosso. Sì, è bello da vedere quello quando è acceso, è bello come baracchino, perché non è, diciamo, è nella classifica dei baracchini, però c'ha tante funzioni, ho visto, è una bella radiolina. Questa radio quando era nuova costava 700 euro. È positivo, positivo. No, già la conosco, l'ho vista, conosco bene quella radio. Vabbè, sì, no, è nuova, è proprio perfetta, va benissimo. Io l'ho comprata a seconda mano comunque. E sì, ne ho visto uno in laboratorio io, di quella lì. Ne ho visto uno in laboratorio preparandola, ma un mostro di radio, l'ha inserito doppio, un altro doppio modulatore, un turbo, non so che cosa dentro. Quella radio lì, adesso non mi ricordo chi l'aveva preparata, io l'ho visto il video quando l'ha preparata, cosa tutto ci ha messo dentro, quella radio lì. Ma vabbè, quella per me è meglio tenerla così, non tutte queste modifiche di gli hanno aggiunto il doppio modulatore, mi hanno fatto una bomba questa radio, però no, è bella vederla così e boh, quella lì. Poi puoi fare una da battaglia, la fai, però quella lì è streccata, voglio dire, è un peccato farla così. E c'è già dei recettatori, da un infarto là dietro, perché questo è se col 100 watt mi manda la corale. Ah, ho capito. Ma quella mi pare che ce l'ha anche l'eco suo, vero? Sì, ce l'ha. Però non la metto perché mi innesca, non capisco perché. Fai, innesca perché quando metti l'eco si apre di più il parlascolta, capito? Va bene così, anche se fa eco. Se va bene così. Se poi lo metto, ma mi fischia, perché c'è il microfono amplificato, capito? Forse è per quello. Quando tu le metti l'eco, l'amplifichi di più e devi abbassare il mic, capito? Dovresti abbassare il mic perché te l'amplifica molto di più, allora ti fa il rientro, perché c'è un po' di parlascolta, giusto? Sì. Quello che te lo fa. Vabbè, comunque, devo andare così, io tengo così perché già mi va bene, mi sono ascoltato, va molto bene. Positivo, però adesso sicuramente tu, io lo so, tu sei sdraiato, perché prima era bella cosa, ma è un po' cupa, forse stai parlando lontano o meno, non lo so. È cambiato la tonalità a me. No, sto parlando troppo vicino, forse è così va meglio. Beh, ma è troppo vicino, era un barattolo, non ho capito, cupa a me. E non se capito, invece così era bella squillante, era proprio cuppa cuppa. Perché ce l'avevo molto vicino alla bocca il microfono, amplifica molto questo microfono. Così è migliore, più forte, più bella, più chiara, più si capisce, invece te la fa molto cuppa come fai così, vedi, vicino. Troppo vicino a volte fa questo effetto qua, l'ho sentito anche da altre persone, gli fa la stessa cosa. Avanti, a tu. Ma non c'è neanche Gabino. Gabino sta saldando, Gabi finita di saldare. Sicuramente l'ingegnere verde è salvente. Mi poco fa sono uscito bene freddo, mamma mia. C'è freddo, tu hai detto di no l'altro giorno, c'è un po' di freddo. Io quando sto scendo a portare il cane e massaccare giù tutto, sembra un babbo Natale. Sono uscito in moto, non sono andato a prendere due cose. Tu mi hai detto che non ce n'è freddo, che a te non ce n'è, la sera entra sempre questa umidità, la mattina magari al sole si sta bene, se vai all'ombra è freddo. Non so. E un attimo che vado al QTH piccolino, così si riceve. In moto adesso è un po' critica. Però mi sto riscaldando le mani adesso. Io già mi metto i guanti la sera, quando scendo, cioè i guanti quelli per andare in moto, che adesso mi sembra che mi vendo il giubbotto nuovo nuovo, me lo metto in vendita, perché tanto non lo uso più, quello con i paracolpi, dei gomiti, eccetera. Cioè no, nuovo nuovo. E quanto non c'è vendente? Avevo pagato 250 euro quel giubbotto, 100 euro te lo do. Se mi pagano l'assicurazione è del video, se mi sta sempre. Guarda che qui non entra né acqua né freddo, nulla, perché c'ha doppia cerniera, io non lo uso più perché moto non ne ho più, quindi non lo uso più, capito? Sì, guarda, se mi paga l'assicurazione me lo prendo. Sto aspettando dei soldi, me lo compro, poi che cazzo, è un bel prezzo. Ma ancora quelli dell'incidente? Sì. E ancora l'altro? A me sta manitato. Ma il comune ti deve pagare anche tu? No, la ditta gli ha seguito il lavoro. Ah. Ma te li danno oppure devi battagliare? No, se me li danno, già. Ah? Ok. Già va bene, dai. Speriamo che sia un bel... speriamo che non dia neanche che cosa, a Romanco. Facciamo un muro che sta a camera da letto, già, no? E anche quella vuole cambiata. Ma tu, con quello lì, con quel giubbotto lì, non ti passa freddo di nulla. Anche acqua, niente, non ti passa nulla. Io quando torno dalla portatrice con gli acquazzoni, l'unica cosa che mi dava fastidio era la visiera del casco, perché si bagnava e non c'era fatto di cristallo. Prendevo questi acquazzoni, cavolo, non mi bagnavo nulla, niente. E sotto cosa ti volevo? Sotto i pantaloni c'avevo quelli che usavo per andare a pescare, quelli scacciacqua, no? E sotto mi mettevo quel giubbotto, quando pioveva mi cambiavo in bagno, mi mettevo quei pantaloni sopra gli altri e poi mi mettevo quel giubbotto lì. I guanti, anche i guanti non passa l'acqua, però i guanti me li tengo perché sono tutti imbottiti, sono mille caldi. Sì. Ho capito. Quando sei morto per freddo, beh. C'è freddo, sì. Ma con quello lì ti assicuro tanto che dopo mi direbbero, con quello lì ti assicuro che ti dovrebbe stare, Non lo so. Gatta. Un pene. Allora, cambia in più da quando gli ho cambiato il variatore. Ma tu è un metro che dovrebbero dare la circolazione. Oh. Ah, non lo sai. No. Ma tu da una moto avuto ne hai? Sì. Quindi devi segnare anche quello. Certo. Gatta. Vabbè. Chissà che si decidano allora. La porto una cosa, la faccio fare bene. A me non mi inviate graffiata. Qual è, graffiata e basta? Oppure c'è qualche cosa da forcella? No, non c'è mai avuto niente la forcella. Vabbè, te la fai fare, se ti ci si tieni, se non è grave usare così, te lo puoi avere. No, ci tengo proprio, la tengo bene io. Te la fai fare anche tu, te la fai aggiustare. Ma che me la fai aggiustare? È nero giubbotto. Adesso è te l'ho detto, se mi pagano te lo puoi fare. Vabbè, fammi sapere. Ehi, tanto per tenerlo nell'armadio, anche se lo sto regalando col prezzo, perché l'ho usato poche volte. Sì, vabbè, l'hai usato però, non è nuovo. Vabbè, io... c'è i paracolpi, nei gomiti c'è i paracolpi. Forse se avessi avuto quello quel giorno non me l'ho fatto così male. Vedi, qualche volta vuol dire che sono fesserie, però già fanno il loro lavoro. Era figlia due dalla cotonora. A volte mi succedeva che tornavo magari più roba forte anche, solo che non sai cosa mi dava fastidio, la visiera con il casco la volevo tenere alzata perché mi si bagnava e che se lo vedevo il cristallo e chi. Però con il resto non mi bagnavo nulla perché io avevo sotto la sella sempre i pantaloni con l'incerata, no? Li mettevo sopra gli altri e poi mi mettevo il giubbotto e i pantaloni sotto la sella ce li avevo sempre, perché se pioveva prima di uscire me li mettevo, andavo in bagno, mi mettevo la roba e poi uscivo. Cioè, l'unica cosa che c'è è che praticamente ti bagna la visiera e non ci vedi. Se non te la alzi non ci vedi, è un po' in faccia di iappa la prendi perché con la visiera alzata un po' la prendi, però... La cosa buona che hanno attestata sopra questa, con la moto di lui l'hanno attestata sopra, quindi non prende acqua, capito? Cappa. È molto molto, di oggi sono così. Vabbè, a me già mi manca la moto, perché mi piaceva un bel la moto, poi c'avevo la moto che andava bene. Camminava pure la mia. Io ti adoro, ragazzi, più calma. Una volta avrei finito la sorsa di Bidazzi da ridire da 160. Ero una bassola che tu conosci, non voglio fare nomi, che se mi siamo così. Cammina piano! Che capisco. E io pensi che mi acceleravo, che bastardo questo. Un rettilineo lì sono sui bidriassi, no, quello che va dal bifo di Platamona verso Porto Torre, c'è lì. E lì è una bella tirata, c'è uscita. Sono arrivato a 160. Potevo andare anche di più. E di più non so se camminava, Però 160 ci arrivava. Sì, buone mano, già. Vabbè, se ne vuole mano quasi mi disetto, basta fare la centralina, questi lavori qua, la mia era un 400, non era un 600, era un 400. Guardandomi qualche accorgimento già fa di più. Beh certo, quello lo so. I rulli, la centralina, qualche fesseria. E la moto cammina un po' di più, però poi quando vai a frenare bisogna vedere se frena come ti devi frenare, perché quei freni sono fatti per quella velocità. Già cambiando il variatore già diventa diversa. E il variatore, i rulli, lo so, però io l'ho lasciata normale. E ho cambiato solo la frizione perché la difettosa me l'ho cambiata a garanzia, fischiava, quando accendeva faceva no, balla, sono tornato indietro, le ho fatto vedere, adesso la ordiniamo, ma e poi la cambiamo, perché hanno fatto questo tipo di frizione che è difettosa, la mettiamo, me l'hanno messa un altro tipo, capito, e così andava bene. Ma la moto dava problemi. Cosa? Dava problemi la moto. Ti scingava, quando tu accelerai faceva come quando la frizione c'ha la cinghia che non va bene. Ah, capito. faceva con rumore, era nuova la moto, capito? L'ha fatta dall'inizio, gliel'ho subito portata a Masara, gliel'ho detto, mi ha ordinato il pezzo, ma l'ha subito cambiato senza problemi. Sì, può capitare. La mia invece da usare da cerano non mi dai colpe, perché siccome c'è la cosa, c'è la malusi, c'è la molla più grande, e quindi punta lo spunto allucinante. Con la moto aveva due difetti, quello della frizione e quello del serbatoio, che praticamente il serbatoio veniva verniciato all'interno. Cosa succedeva? Che la vernice si sgretolava col passare del tempo, si sgretolava e otturava gli ugini, lo faceva passare bene il coso, la benzina, capito? Cosa succedeva? Che praticamente poi la moto non prendeva l'accelerata, gliel'ho portata, sono sentito anche quello, ho messo vetroresina senza essere verniciato, non ha più fatto difetto, è sempre andata bene. Aveva quei due difetti dalla fabbrica, però te li sostituiva in garanzia, non pagavi nulla, manco la mano d'opera. Buono così. No, c'era il coso che è una rocca X9 della Piaggio, ce l'ha avuto un bel tempo un amico mio, non mi ha mai dato un problema. Vabbè, ma non mi piace la forma, è brutto di forma, non mi piace a tu. Il mio era bello come estetica, era molto bello, mi piaceva quello, poi anche il T-Max mi piace, però come estetica mi piaceva più la mia del T-Max. Ma il T-Max mi piace perché l'ho provato una volta, me l'ha prestato Franco al quadrato, ha detto una sazzata, mi ero lacrimato gli occhi, immaginati. Aveva una potenza quella volta allucinante. Arrabbiamo. Pronto nel ritiro del quadrato, lì l'ho tirato a vedere come andava. Che cazzo ne accelerata? Quella pompa. Ehi, ma c'era anche un'altra cosa che l'avevano, mi sa che l'avevano modificato la centralina o qualche cosa. Naturalmente sono Franco, non mi ricordo. Cosa? Che ce l'aveva anche un'altra persona, non sono Franco. Sì, ce l'avevano in due, sì. Me lo ricordo. L'avevano modificato, che poi tutti e due cambiato le marmite, tutto quanto, l'avevano fatte, se camminavano un bel... C'è abitati. Io non l'avrei mai venduta quella moto, se non andava bene. Solo che dice che ci voleva il portafoglio a sonetto, perché consumava un bel... Beh, se tu la modifichi non mantieni più gli standard. Ma io so che quando tu modifichi la centralina dovrebbe consumare di meno, non di più. E invece questa consumava di più. Scappa, oddio che ci sono i capi, sa. Cosa, tu? No, Sara, tu dici. Aspetta che chiama Gigi. Gigi, avanti. Gigi Vulcano. Cazzo, c'è un buon buro, che si è ambisciato. Sì, Come il cavallo, dai. La fa lunga come il cavallo. Vabbè, e comunque Antu, è così, quando avevo la moto tutte le commissioni facevo in fretta, parcheggiavo dove capitava, trovavo sempre il posto per parcheggiare, invece in macchina è un casino, se non vado a lasciare più il parcheggio mi stai direi 3 ore. Ma infatti io me la tengo la moto, non la tocca nessuno. Ma infatti Antu, se va bene, scusa. Tanto se va bene, a buco vedi, sì. E te l'avevano regalata, no? Sì, io l'ho preso con il coglione verde, ancora tanto mi ha fatto la paga, è tutto a posto. La paga, E comunque... Ma adesso sempre così, e io mi ricordo quando avevo l'SR, mi avevano detto che dovevo mettere la targa che avevo nell'altra moto, sempre così. Non lo so, forse bisogna fare il passaggio, non mi ricordo se si può mettere quella che ho io, perché ho la targa grande. Vabbè, 50, quanto è 48 il tuo? 50. Ma modificato, no? Solo il variatore è stato cambiato, tu. Vabbè, ma ti rende di più? Cosa? Ti rende di più di prima? Io non credo, via. Ok, cambiali anche i rulli, mettili quelli da lungo, come ho fatto io. Ma c'è rulli da lungo, poi camminavo all'SR, catta, faccia fa 100-110. A lungo pure a solo il variatore l'aveva cambiato, qualche cosa a pugni gli aveva messo. No, il mio è Malossi. Sì, Gianni, scusate, ma Gigi c'è ancora? Cosa, Gavi? Gigi c'è ancora? No, non ti ho capito, scusa. Gigi c'è ancora? No, no, l'abbiamo chiamato ma non è rientrato. Gigi? Ha staccato per andare in cutia a piccolino, ma ancora non è rientrato, deve essere che era lunga. Beh, ok. No, volevo solo chiedere un controllo, dai. Va bene così. Ok. E prova radio 1-2, prova radio test, prova radio 1-2, Cosa stavi combinando, Gavi? Cosa stavi salvando? No, stavo facendo degli spezzoni per un rosmetro. Degli spezzoni per un rosmetro stavo facendo. Niente. Va bene. Ieri ho fatto 16 spezzoni, quindi 12 PL. Quando poi sono andato a avvitarli negli apparecchi, la filettatura era diversa, non funzionava, negli apparecchi non l'avvitava, tirava la moto. No, io ho preso dei PL, dei mister Paoloni, e li ho fatti con la Camille, infatti li sto provando, ma sembra che vadano bene, ma non lo so, sembra che vadano bene. È un po' rigido il capo, però è buono, di ottima qualità. Poi quei PL sono di una robustezza e di una perfezione che devi stare attento anche come li fai, perché altrimenti li saldi male e bruci e fai tutto, quindi devi essere un pochino concentrato su quello che stai facendo. Ok, no, invece da Fusaro stavano vendendo quei PL che erano difettosi, tutti così li hanno trovati, cazzo, ma immaginati 12 PL, tutti saldati, adesso mi tocca di nuovo smontarli, e mi stava dicendo Natalino che aveva le filettature con le normali, e l'unica cosa da fare è togliere un PL, svitare quello che c'è piazzato, rimetterli quell'altro che avvita bene e poi rimettere l'altro PL, e più che così non si può fare. Però intanto almeno 6 PL li devo smontare. Sì, no, ebbè, sono roba economica. È roba economica già, io non è che prendo e faccio le cose, però quando una cosa è economica, non c'è niente da fare, fanno schifo, quelli fanno proprio schifo, non bisogna neanche prenderli in considerazione, perché non sono imbacchinite già come la radio, ma senza attaccare niente, già con se fai qualche passaggio un po' lungo che scaldano si sciolgono, solo che poi se li fa vedere il saldatore si spaventa e sono così. Sì, quelli lì non servono a nulla, io li prendevo sempre macchinite, infatti ne avevo da tanti anni fa, nuovi ancora, ma io ho usato sempre macchinite, ho usato quelli, però questi qua, infatti vai, tu riporta, vai a cosa te li riporta, adesso mi tocca, già trovare parcheggio lì è un casino, ogni volta ti devi ammazzare e poi ti mettono anche la multa se non stai attento. Sì, è vero, però devi prendere e bisogna anche dirglielo, perché non è che uno dice ma costa 2,50 euro, ho capito, però io 2,50 me li lavoro, non è che devo regalare i soldi a nessuno, allora perché costano 2,50 bisogna prendere e bisogna comprare tutto quello che viene, no, non è così, purtroppo allora bisogna dirglielo, ma non, con Marzia non basta chiedere, te li ordina, te li ordina senza problemi quelli buoni, se c'è ancora il rappresentante. E io gli ho messo la Camilla a questi qua, però è un casino che è rigido come la mala sorte questo capo. Ripegna tu. Ciao, quelli lì, cioè, l'avevo comprato anche io, gli ho dovuto cambiare il barilotto perché non mi abitava pure a me. Ho dovuto risaldare e rifare. E gli ho messo uno di quelli più che abita. E non bisogna prenderli. Bisogna prenderli da internet, anche se costano un bel, però il detto è poco spendi e poco hai, la verità è quella, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, io l'ho presi da internet e vengono cari, però non sono buoni, però sono buoni, vai già a riprenderla. Ma infatti, gli altri non l'hai preso, quelli altri non. Sì, però sono quelli Missi e Paoloni, marchiati da loro. Ho capito. E vabbè, quindi buoni sono gli Arsenal, perché tutti gli altri adesso, prima quelli che facevano le macchinette andavano bene. E infatti io, ti ripeto, ce l'avevo qualcuno da qualche anno fa, qualcuno l'ho trovato nella scatola e gli ho piazzati quello. Però anche nella macchina, nell'antenna, c'era quel tipo di pelle che non andava, ho dovuto toglierlo e metterli con le macchinette, perché non andava bene quello lì, non avvitava. E lo dirò, cercavo di avvitare e finivo con lo spanare la filettatura qui dell'apparato e me la prendevo nell'occhio. Sì, ebbene, per forza. Va bene. Vediamo un pochino. Sembra che sia tutto perfetto. Va bene così. A quanto lo paghi tu da quelli lì? L'H1000. Ma vuoi sapere il PL o il capo? Il capo. 6 euro. Qua cosa lo sta vendendo? Fusaro ce l'ha, lo sta vendendo da 5 euro al metro. No, 6 euro lo vuole, l'ho preso lì, 6 euro, 6 euro al metro. E i PL vengono 9 euro e 50 l'uno. Minchia. Costano un po', però sono buoni. Però sono buoni, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, sono loro. Qua ci vorrebbe un bel patrimonio mettendo una cosa del genere. Ma non pensare, perché se tu guardi la spesa che fai a comprare i PL che non servono, li paghi 2,50 l'uno, perché vengono quanto? 2,50, 3 euro l'uno. E conta quanti ne cambi all'anno e quanti ne cambi ogni 2 anni. E poi mi dici che sei speso di più a comprare quelli buoni e a comprare quelli che non servono a niente. Perché te ne bastano 2, perché te ne bastano 2 o 4. Anche se spendi 40 euro e il capo ce l'hai già buono, però è roba che ti dura 20 anni. No, io li ho presi pure, non li ho presi qua, sia per l'antenna e sia per qua. Ho preso tutto pure, ho comprato l'H155. È buono come capo, io ho l'H1000 come capo. Però sempre della Missi e Paoloni. Viene, ne ho 22 metri. Lo so. Oggi è buono come capo, infatti l'ho pagato un po'. Com'è grigio la vita? Però è diverso, non puoi metterlo a paragone all'RC58, Non puoi metterlo a paragone all'RC58 e qua lo prendi 213 o l'RG8 oppure prendi la Camilla o quello che hai preso tu. La Camilla è un po' rigido, però è molto performante, hai una perdita, è proprio perdita zero. Proprio perdita zero, ma quello va bene più che altro, la Camilla è anche esagerato per l'HF, la Camilla va bene per UHF, UHF è perfetto, quando hai molta, devi fare almeno 10-15 metri, 20 metri di tratta, devi prendere la Camilla per la UHF, è quella una frequenza un po' delicata. Vai, riprendi già. io invece ho preso l'H100 e va benissimo. L'H100 è quello grigio, non so se tu lo conosci. Sì, lo conosco. No, vanno bene, però per l'HF va bene anche l'RG58, non pensate che sia una cosa che si appiccia, intanto non se devi fare anche 20 litri e non devi usare kilowatt, kilowatt va bene anche 58. Il 58 ce l'ho avuto per 12 anni e non mi si è mai rovinato, mai. 12 anni ce l'avevo sul tetto. Diciamo che un po' il sole era seccato, però all'interno era perfetto, non era nero come certi dicono che lo si fa nero. Il mio non era nero perché l'ho tagliato apposta per vedere ed era sempre perfetto dentro. Fuori un po' magari l'ha essiccato, l'ha indurito un po', dai, però andava bene ancora. Io l'ho tolto perché poi ho cambiato tutto, ho cambiato anche il napalo, tutto quanto praticamente, ho rifatto tutto l'impianto e quindi ci ho messo anche il cavo nuovo, capito? Sì, devi, il 58 per durare devi prendere e devi, già, devi mettere la cosa, la, il corrugato. Il 58 io ne ho una calata per un antennino e ho messo il corrugato, è passato dentro il corrugato, poi lo prendi quando vai, quando lo devi intestare su un'antenna, isoli tutto e ti rimane nuovo. Io un po' di anni fa, quando c'avevo la stazione già a Porto Torres, era dentro il corrugato, ho tolto il 58 che era come quando l'ho comprato, anche il PL, basta che gli metti il termorestringente, la buona termorestringente alla fine, poi gli metti il vulcanizzante, il RC58 ti dura in questo modo, ti dura anche 10 anni e non ti dà nessun problema. Ci credo che è così, perché nel 58 si è sempre usato, mi capi? Poi vabbè, noi siamo esiliati, non vogliamo avere perdite e cose, sì, qualche perdita ce l'hai più dell'altro, ma in tamattato va bene, perché in macchina, per dire, cosa usi? Non usi il Regi 58, cosa usi? Sì, usi il 58, però le perdite cosa c'hai? Un Santiago di, cosa c'è? Un dB di perdita, no, 1-2 dB di perdita, quindi intanto in antenna, se dalla radio esci con 4-5 watt, anche se usi la K1000 non ci arriverà mai con 5 watt in antenna, proprio mai, proprio tu devi scordare, perché tra calore e tutto in antenna arriverai massimo 3 watt, 2 watt e mezzo, quindi anche con la K1000 hai la perdita, dicono di no e però c'è, perché già quando esci dal PL la radio di lì perdi, poi in antenna perdi e poi tutte le cose, anche basta che sia il capo abbia una spirale, quello ti fa perdere. No, il 58 io l'ho usato per 5 anni, io quando poi l'ho tolto era perfetto. Poi non vai mai a buttarlo, perché il 58 quando poi l'ho usato puoi farti anche un dipolo e ti esce perfetto, perché ha già la bassa impedenza, è un 50 ohm, quindi non devi stare neanche a romperti le scatole o le acquolazioni. Sì, infatti prima mi ricordo che usavano le 58 per fare i dipoli. Adesso usano filo elettrico, ma prima usavano la RG58, me lo ricordo bene, Manuel se l'aveva fatto, un tipo che modulava a Sassari, e ce l'aveva fatto con la RG58 e parlava con tutti quanti. Io il dipolo ce l'ho fatto col cavo a 50 ohm, però il cavo microfonico, capito? È sempre 50 ohm, un cavo sbilanciato a 50 ohm, perché se prendi quella a tre poli è già 120 ohm, non è più e non va più bene, però col capo microfonico sbilanciato quello lì è un 50 ohm, quindi potrebbe anche quasi andar bene a fare il capo per antenna, quasi KK. KK stanno dicendo, io ho preso quello perché mi sono fidato di più, perché non avere perdita, perché ho quasi 40 metri di capo per fare il laggio, sembra una canovata, però c'è un bel po' di capo, e quindi ho detto prendo l'H155 e via. E a tanto, ma c'aveva lo stesso la perdita, non pensare che perché hai preso la cacciata 55 non è la perdita, eh. Ce l'hai lo stesso, fidati che c'è, perché se tu metti un rosmetro su in antenna, ti fa uno spettruncino, no? E metti il rosmetro su in antenna e gli dai 100 watt, su in antenna sta arrivando con 70, ma neanche pure, quindi no, non è così. Io l'ho preso, io l'ho provato e mi dava 10 watt, mi dava, l'avevo quasi 10 watt in perdita, ma 10 watt in perdita con la K1000, è un impianto fatto doc, però c'hai sempre quella perdita lì. Poi devi vedere, io parlo in uscita in antenna, al PL invece di uscire con 10 watt escono 8, però una volta che arriva in antenna il segnale hai quei 10 watt, secondo cosa li dai li perdi, capito? Non è che se tu gli metti magari 5 watt ne perdi 10, no, però se metti 5 watt, quei 2 watt li perdi per forza. Li perdi per forza, sì. Va bene. Oh, io. Ragazzi, io mi continuo a fare qua che ho un mezzo casotto, devo ritirare un po' di roba, anche perché tra un po' devo fare una commissione. Ok, ci sentiamo tutta la Prussia. Ciao Antonio, ciao Gianni, e buona serata anche a chi l'ascolto. Quelletti da parte mia. Ciao Gabi, ci sentiamo, dai, buona continuazione, avanti Antonio. Ciao Gabino, ci sentiamo, buona continuazione con tutto. Anco, che non si sono fatte che mi si è fermato l'orologio, mamma mia. Ma marito, 6:30 passato. Sì, è presto, 6:30, è presto, pensavo fosse più tardi. È 40, c'è scritto qua. Kappa, oh yeah. E beh, poi sei andato là a karaoke. Ancora. Sei andato? No, ancora no. Eh? E a me domenica mi hanno telefonato sabato per vedere se andavo ieri. Mi hanno telefonato ma non mi sentivo bene, non ci sono andato. Se no sarei andato. Avevo questa debolezza, boh, santo, ma debole però me, non riuscivo a reggermi in piedi. Aspetta, ho già messo i denti, mi ho misurato la glicemia, ce l'avevo tranquilla, boh. Non so da che cosa dipenda, forse è l'influenza, poi ero tutta dolori mi ne gioco bisardo. Da me se ho preso umidità, che ne so. Sicuramente. No, guarda, per venire così non ci vengo perché poi non mi diverto, perché non sto bene, mi preferisco sdraiarmi perché avevo quella stanchezza proprio che se non ti sdrai stai male, ecco, quella stanchezza lì, proprio al limite ero. La stanchezza di gradiata. Secondo me mi stava prendendo l'influenza perché mi stavano lacrimando gli occhi, avevo un po' di mal di gola pure, ho detto ma in ogni caso per bicicletta. Sicuramente così, ma ce l'abbiamo su 10, no? E tanto non c'è nessuno, prova io. Ma che è una cura?